Il bene di tutti, parliamone. Rubrica realizzata dalla Pastorale Sociale del Lavoro della Diocesi di Padova. Conduce Andrea Cantun. Lo riconoscete? Dopo 35 anni di assenza, questo allegro motivetto è tornato a rallegrare il palinsesto della televisione italiana. È una tarantella dell'Ottocento, il cui autore è rimasto anonimo, che è divenuta però per tutti l'inconfondibile sigla di Carosello. Tutti conoscono Carosello, anche i più giovani, che non hanno mai avuto l'opportunità di guardarne una puntata in diretta. Ne hanno avvertito il fascino grazie ai racconti dei fratelli maggiori, dei nonni e dei genitori. Carosello era prima di tutto divertimento. Negli anni di un'Italia più composta, più ingessata, Carosello permetteva l'evasione, prometteva una società in cui c'era più divertimento, c'era più benessere e regalava un po' di colore alla TV bianco e nera austera dell'epoca. Carosello educava un'Italia che si stava rialzando dagli sforzi del primo dopoguerra al consumo, moderando i messaggi promozionali con le peripezie di Giocondor e le disavventure di Calimero. Poi però nel 1977 qualcosa cambiò. Il 1 gennaio Carosello andò in pensione, mentre il 1 febbraio il compianto Corrado dava il via alle trasmissioni a colori. Il mondo era cambiato. La pubblicità televisiva, prima ben delimitata, ben confinata in recinti precisi, quello del Carosello, iniziò a straripare. Anche questo contribuì a quel boom delle televisioni private che puntualmente si verificò. La pubblicità non è vecchia quanto Carosello, ma esiste da sempre. Sui muri di Pompei si possono ancora leggere i messaggi promozionali dell'epoca per il vino, per l'olio e persino della propaganda politica per questo o quel candidato. Ma è indubbio che sia stata la società della comunicazione, dai primi giornali all'era del web, a darle l'importanza che è oggi. La pubblicità è dappertutto. Dicono che la pubblicità sia l'anima del commercio. La sua presenza ovunque non rischia però di stravolgere anche la nostra di anima? Nel mondo dei mezzi di comunicazione sociale, le difficoltà intrinseche della comunicazione spesso vengono ingigantite dall'ideologia, dal desiderio di profitto e di controllo politico, da rivalità e conflitti fra gruppi ed altri mali sociali. I valori e i principi morali valgono anche per il settore delle comunicazioni sociali. La dimensione etica tocca non solo il contenuto della comunicazione, il messaggio e il processo di comunicazione, come viene fatta la comunicazione, ma anche questioni fondamentali strutturali e sistemiche, che spesso coinvolgono temi relativi alle politiche di distribuzione delle tecnologie e dei prodotti sofisticati, chi sarà ricco e chi povero di informazioni. Abbiamo con noi in collegamento telefonico Don Marco Sanavio, responsabile dell'Ufficio Comunicazioni Sociali della Diocesi di Padova. Grazie per essere con noi, Don Marco. Bentrovati a tutti. Carosello è tornato nelle TV italiane. È segno della crisi della pubblicità televisiva che raschia il barile o il ritorno di un'idea vincente? Ma è un tentativo un po' curioso di recuperare una modalità di comunicare che ha avuto molto successo nel passato, però questo, come avrete già sentito dai primi commenti, ha prodotto ovviamente due tipi di reazione. Da una parte quelli che dicono è un'operazione riuscita e fondamentalmente la pubblicità più distesa con dei tempi diversi funzionava, era efficace. E dall'altra ci sono i critici che invece lo ritengono una mostruosità e dicono che questo show è stato confezionato in fretta, mancavano gli investitori veri e l'evento non era lanciato in profondità con una campagna che penetrasse in maniera capillare. Quindi anche su questo, sull'operazione Carosello Reloaded, ci sono vari modi di pensare. Parliamo di pubblicità in senso generale, ci sono tanti che hanno scritto dei libri, che hanno parlato dei lati oscuri dietro la pubblicità, i persuasori occulti, ricordo. Quali sono stati, al di là di pensieri insomma un po' troppo pessimisti a lungo andare, però gli effetti negativi nella società da parte della pubblicità e della pubblicità eccessiva? Sicuramente la pubblicità ha condizionato i consumi e a volte purtroppo ha orientato verso anche dei consumi non sani, sia dal punto di vista alimentare che dal punto di vista della vita quotidiana, che dei costi che certi prodotti hanno rispetto a corrispondenti prodotti poco pubblicizzati ma ugualmente buoni, e quindi c'è un aggravio di spesa per le famiglie solo perché il marchio è ben posizionato. Certo, poi la persuasione occulta è sicuramente in qualche modo un retroscena della pubblicità, ma non è così scientifica, cioè non dobbiamo immaginare che dietro ci siano sempre dei neuroscienziati che studiano in maniera scientifica come condizionare le menti delle persone. Siamo molto più semplici, a volte ci basta ascoltare più volte il nome dello stesso prodotto perché in qualche modo dentro di noi entri la fiducia verso quel prodotto. Esiste quindi anche una forte responsabilità dei mezzi di comunicazione sociale in tutti i suoi aspetti verso il consumatore, quindi non solo la persona informata ma anche il fruitore di intrattenimento e quindi anche di messaggi pubblicitari. Ovviamente sì, ma questa pubblicità, questa, riparto dalla risposta, ovviamente sì, ma questa responsabilità c'è chi la sente molto più pregnante e chi invece in qualche modo cerca di non farne assolutamente considerazione o caso. Ad esempio, grande attenzione in questi ultimi anni è stata messa alla ripercussione che gli spot hanno sui minori. I minori possono difendersi molto meno degli adulti e quindi nei loro confronti ci sono molte scuole, istituzioni che hanno avviato dei corsi o comunque dei percorsi anche brevi di attenzione a come decodificare la pubblicità. D'altra parte il minore è in casa, è indifeso, magari è davanti alla TV per guardare un prodotto anche simpatico, educativo, e improvvisamente si trova interrotto questo prodotto televisivo da uno spot molto subdolo. La domanda è come fa a difendersi se non c'è un po' di etica e di responsabilità da parte del produttore. Il minore è in balia di ciò che gli viene proposto. Che modo ha un'inserzione, uno spot, un manifesto, un carosello di essere a misura non solo di minore ma di tutte le persone, quindi guadagnare anche una dimensione etica corretta della pubblicità? Beh, oggi comunque c'è un organo di controllo della pubblicità che verifica che almeno non sia ingannevole, per cui ciò che viene detto all'interno dello spot deve essere abbastanza trasparente rispetto al prodotto che poi viene venduto. Dico abbastanza perché a volte ci sono queste aree grigie che vengono sfruttate dai produttori, dai creativi, dai copywriter per giocare un po' con la psiche dello spettatore, e quindi c'è un margine di inganno che purtroppo riesce a passare attraverso anche le maglie dei regolamenti. Però diciamo che in generale c'è una grossa attenzione, oggi il pubblico è anche più consapevole, quindi perché uno spot sia a misura di consumatore c'è anche l'opinione pubblica che spesso da sé fa in modo che certi spot poco corretti, poco anche eticamente attenti alla sensibilità delle persone e alla trasparenza del prodotto siano in qualche modo eliminati, quindi è successo. Ci fermiamo qualche istante, Don Marco, e torniamo tra pochissimo. Il bene di tutti, parliamone. Chi non ha sognato mai il grande amore, chi non l'ha trovato mai e sogna ancora, e chi crede che non vale più la pena di cercare e che è solo un'illusione tutta questa grande attesa per il grande amore, e che non farebbe pazzire, sono solamente bugie. Cosa c'è da vergognarsi di soffrire, tormentarsi e magari di rischiare fino anche di morire per il grande amore? siamo seri, molto bene concentrati su traguardi più importanti, su problemi veri. Niente storie, favole e chimere, restiamo con i piedi per terra, non si può afferrare una stella. Ma chi non ha sognato mai il grande mondo e non lo inseguirebbe una vita intera. E chi cerca la ventura che duri solo una sera e poi niente se diventi troppo ingombranti. Cose da altri tempi. Niente storie, favore e chimere, restiamo con i piedi per terra, non si può afferrare una stella. Ma chi non ha sognato mai il grande amore, a chi non ha trovato mai Blu Radio Veneto. Il bene di tutti. Parliamone. Bentornati carissimi ascoltatori al Bene di Tutti Parliamone, una puntata dedicata alla pubblicità, alla comunicazione commerciale e agli effetti che può avere nei confronti delle persone. Esiste una pubblicità etica? Esiste un modo di comunicare i propri prodotti e le proprie idee che non vada contro le altre persone? Siamo in collegamento con Don Marco Sanavio, responsabile dell'Ufficio Comunicazioni Sociali della Diocesi di Padova. Grazie Don Marco per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi per avermi invitato. Tralasciando le pubblicità Progresso e le altre campagne istituzionali, e sono stati codificati delle modalità, ci sono delle campagne per delle pubblicità etiche responsabili? Ma in realtà sì, c'è questa attenzione da parte di molti produttori, la sensibilità parte ovviamente dalla tutela dei minori in ambito pubblicitario, che sono quelli più indifesi di fronte allo spot che passa in TV o che vedono su una rivista, su un giornale dedicato anche all'infanzia, e va fino a idee e comunque operazioni molto più vaste, come può essere quella di Adetic, che è un consorzio che in qualche modo cerca di proporre della pubblicità con dei valori in linea con gli editori e con quanti poi la pubblicheranno all'interno dei loro media, e dall'altra parte una fetta considerevole dei ricavati da questa pubblicità vanno poi destinati in beneficenza. Adetic, ce la può descrivere un attimo come il sito è? Allora, vi faccio lo spelling perché non è semplice, è Ancona Domodossola Empoli, Torino H di Hotel, Imola Como, Adetic con la H fra la T e la I, adetic.net. Si tratta di un consorzio persone che in qualche modo fanno capo alla Chiesa Cattolica, una fondazione di comunicazione che si occupa di questo, si chiama Fondazione per l'Evangelizzazione attraverso i media, quindi ha comunque un retroterra ecclesiale molto ben riconoscibile, che cerca in qualche modo di raccogliere della pubblicità in linea con i valori del mondo cattolico. Sono state fatte delle analisi con più soggetti per definire dei parametri molto chiari, e che poi destina una parte dei ricavati proprio per progetti di beneficenza che si vedono in qualche modo crescere, sono documentati, si vedono crescere anche sul sito attraverso i ricavi pubblicitari. Ha avuto un buon riscontro per adesso? Ma i riscontri al momento sono buoni, anche perché questa operazione ha un impatto mondiale. Ovviamente in Italia c'è ancora qualche riserva, non siamo abituati a pubblicare pubblicità all'interno dei nostri siti, anche quelli parrocchiali o legati ad attività in qualche modo ecclesiali. Poi non abbiamo dei volumi di traffico così alti spesso all'interno di questi siti, però ci sono grossi network statunitensi, per esempio, che hanno già inserito queste pubblicità all'interno dei loro circuiti, che hanno migliaia di contatti al giorno, e quindi l'operazione ha iniziato a girare in maniera considerevole. La pubblicità si è evoluta, la pubblicità abbiamo detto che esiste praticamente da sempre, dai graffiti di Pompei alla carta stampata, alle tecnologie di massa, per cui dalla radio, la televisione, il cinema. Adesso ci sono anche queste nuove forme, la pubblicità virale, le campagne di guerriglia marketing. Tutte hanno effetti diversi, possono essere effetti positivi, effetti negativi. Si possono in qualche modo sfruttare le novità anche della pubblicità per veicolare messaggi positivi? Assolutamente sì, innanzitutto c'è una legge, una regola non detta e non scritta della pubblicità, che dice che lo sfondo di quello che noi vediamo diventa in realtà il contenuto, cioè quello che di solito è l'ambiente, il setting, i colori, la musica che accompagna uno spot pubblicitario, e noi riteniamo degli elementi accessori, in realtà fanno già il contenuto, anche il ritmo dello spot. Quindi è anche una forma d'arte, una forma di comunicazione molto sofisticata, che oggi viene usata anche in ambiente ecclesiale. Ci sono ad esempio dei centri nel mondo, ce ne sono in Thailandia, negli Stati Uniti, in Francia, Lione, che stanno studiando come proporre messaggi agli adulti che siano in linea con certe regole che la pubblicità ha già sfruttato da molto tempo. Quindi io direi che è venuto proprio il tempo di prendere queste tecniche e di poterle riapplicare ad altri settori. Se la pubblicità non è altro che un comunicare qualcosa, renderlo evidente, renderlo gradito alle persone, si può dire che in qualche modo anche l'evangelizzazione, la comunicazione della fede, non è altro che un proporre qualcosa, e questo è sempre stato fatto da 2000 anni. Si può in qualche modo prendere a prestito le tecniche della pubblicità per campagne di evangelizzazione, o comunque nella stessa comunicazione che ci può essere tra un parroco e i suoi fedeli, o tra un catechista e i suoi ragazzi? Direi di sì, molti lo stanno già facendo in maniera mista, quindi utilizzano ad esempio la potenza e la pervasività della rete insieme con gli incontri in presenza. Però ricordo anche che le stesse parabole di Gesù, e ci sono diversi studi su questo, erano una forma di comunicazione molto intelligente, che si può avvicinare in qualche modo agli spot di carosello, perché vi erano delle vicende che finivano in maniera inconsueta, quindi c'era una curiosità suscitata alla fine del racconto di Gesù, le persone si chiedevano perché mi ha spostato i piani di attenzione, cosa sta succedendo, e lui ne approfittava per far entrare un contenuto salvifico. Dunque l'invito per gli operatori della pastorale quale può essere? Assolutamente è quello di mettersi in ascolto del potere che hanno le tecniche pubblicitarie, di approfondire come funzionano, di difendersi se è il caso, ma soprattutto di rigirarle a proprio favore se si è in grado e se si ha la voglia, la pazienza di mettersi a sfruttarle a vantaggio anche dell'evangelizzazione. Grazie Don Marco per le sue parole, quindi invitiamo gli operatori pastorali e invitiamo chi si occupa di comunicazione anche in ambito ecclesiale di dotarsi questi strumenti, e per questo ricordiamo l'esempio del Beato Alberione, giusto? Sì, ringrazio io voi di avermi dato questa opportunità. Alberione è sicuramente un apostolo che ha aperto la strada, ma oggi molti altri cristiani, anche alla base, anche con un semplice sito, un profilo Facebook, possono fare tanto per la nuova evangelizzazione. Grazie ancora. Ci troveremo nuovamente, carissimi ascoltatori, la settimana prossima sulle frequenze di Blu Radio Veneto. Potete riascoltarci grazie al podcast sul nostro sito. Per contattarci potete mandarci una mail a redazione@bluradioveneto.it. Da Andrea Cantone è tutto, un saluto. Avete ascoltato Il bene di tutti, parliamone, rubrica realizzata dalla Pastorale Sociale del Lavoro della Diocesi di Padova.